stanno dicendo senza molta logica. Mi sono lasciato catturare prima di tutto da quel voi che dite che io sia. E se proviamo a interrogare le scritture, forse troviamo le risposte. Mille volte di Gesù, Messia, unto del Signore, magari ha rivelato in pensieri la volontà del Padre, quello del regno, quello di avere là dove l'amore è perfetto. Mi sono lasciato un po' interrogare. Naturalmente quello che sto dicendo è anche una sua ha anche una sua documentazione evangelica. Se mi chiedono, ma voi che dite che io sia? Io comincio a dire così. Tu sei il sostenitore della coerenza tra parola e azione. Sì, è il vostro parlare, sì. No, no. Quanto di più di questo viene dal maligno. Tra parentesi. La parola ascoltata e detta è il principio della fede, della vita di ogni essere umano. Con essa egli capisce, interpreta, legge, magari trasforma la realtà. Tu sei il sostenitore dell'uomo a immagine di Dio. Matteo 22, 15, 21. Immagine potente, no? Avevo fame, avevo sete, ma chi? Quando mai? Quando avete incontrato? Immagine di Dio. Tu sei il realizzatore del bene globale per l'essere umano. Le beatitudini. Pensiamo alle relazioni più diverse, ai gesti, alle parole che entrano nella coscienza di chi lo incontra, compresi i suoi discepoli. La folla commossa, i discepoli stanchi, li mette a riposo, che consiste nell'abitare la tenerezza di Dio. Distoglie delle aspettative miracolistiche. Tu sei il sostenitore della vera purezza umana. Matteo 7. Non capite che tutto ciò che entra nell'essere umano dal di fuori non può contaminarlo, perché non gli entra nel cuore ma nel ventre. Ciò che esce dall'essere umano, questi sì, contamina l'uomo. Tu sei il fondatore di un ricco equilibrio delle relazioni fondamentali. Luca 10. Cosa devo fare per avere la vita eterna? E racconta la parabola del Samaritano. Tu sei il difensore del valore del sabato. Luca 13. Di sabato, nella sinagoga, entra la donna malata, la guarisce ed è criticato. Anzi, e qui il rapporto tra legge e coscienza esplode. Tu sei anche il volto del giudice che salva, non un messia che fa vendetta. Sono venuto nel mondo non per condannare il mondo, ma perché si è salvato. Tu sei il catalizzatore di unità tra i credenti, Giovanni 10. Io sono il pastore bello. Conosco le mie pecore e le altre che non sono qui sono di altra ovile, ma anche per loro io sono il catalizzatore. Fatta questa disquisizione, se volete, volevo ritornare un attimo al Vangelo, perché siamo provocati da tre situazioni che mi pare abbiano un significato unitario. Il significato tanto di enunciarlo come il pensiero di Dio nella storia di Gesù e di tanti uomini e donne come noi. La prima situazione è il profeta Isaia. Presenta un Messia, colui che fa vedere le cose da un altro punto di vista, del tutto diverso da quello del popolo ebraico si attendeva. È una grossa contrapposizione tra il pensiero di Dio e le attese del popolo. C'è una seconda situazione, quella descritta da Giacomo, altra contrapposizione. Il primo posto è dato ai poveri, perché si presenta il Signore come Salvatore. Fosse vero, fosse vero. La terza situazione è il Vangelo. E qui mi chiedo, ma da dove sorge questo modo di porsi di Gesù con queste domande? Chi sono io, che dice la gente? Dove vuole arrivare? Cercando di entrare nel testo, ho provato a rispondere così. Intanto è un'emozione forte che suscita la lettura di Marco. È come vedere la scena, il quadro in cui si muovono persone vere, non personaggi prefabbricati, precostituiti da cartapesta o da televisione. Forse Gesù ha poco di più di un anno dall'inizio del suo ministero, sente il bisogno di capire se sta camminando sulle vie di Dio, se rende concreto il pensiero di Dio, se sta compiendo la sua missione, e questo è un forte richiamo alla umanità, quella vera, vera, quella incarnazione reale di Gesù. E questo vuol dire anche che avverte la resistenza, le difficoltà che affiorano, il venir meno di alcuni amici suoi. Vedi Pietro, mi immaginavo un giorno così per Carlo, se sotto la cupola di San Pietro, invece di con i caratteri dorati ci fosse Christus vince, Christus regna, e lì l'inno ai papi, e ci fosse scritto anche, guarda che ha detto lontano da me Satana. Che orecchie di intendere. Questo vuol dire che avverte la resistenza. Questo Gesù storico non ha nessuna telefonata divina, nessuna scienza infusa. Chissà quante volte nella sua preghiera avrà rivolto domande al Padre. La gente dice, i discepoli sono forse non del tutto consapevoli di che cosa sta avvenendo nella fiducia nel Messia, anche se presto la sua esclamazione forse gli apre loro gli occhi. Chiudo, così non vi stanco più. Il grande dramma del cristiano, anche oggi, è sempre Gesù Cristo. San Giovanni, al capitolo 4, dice: chi divide Gesù Cristo, questo è l'anticristo. Dividere Gesù Cristo è privilegiare in Lui o l'umanità o la divinità. Noi, credenti, cristiani, siamo chiamati contemporaneamente da due voci, e se non si fanno coincidere, se non si fondono, quelli che lottano per l'uomo saranno ritenuti lontani da Dio, quelli là scomunicati, quelli che parlano male, e quelli che portano e che parlano di Dio sono ritenuti estranei alla vita dell'uomo. Forse portiamo in noi, dentro questa inquietudine nell'esistere, il nostro rifare la pace con Dio e con l'uomo, senza dividerli. Cioè, non mi sento lontano, estraneo a Dio, mentre sono qui a celebrare un rito, un segno con tutti gli uomini. E non mi sento lontano dagli uomini mentre penso a Dio. Mentre sto con Dio, sto anche con gli uomini. Mentre sto con gli uomini, sto anche con Dio. Credo che sia l'unica equazione che alimenta la nostra fede. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. E pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti benediciamo.